certo che può succedere queste cose, i bambini non solo ai bambini, può succedere anche a un grande, non solo ai piccolini, perché un'indigestione o qualcosa può sempre succedere. È positivo. Già, di chi stavi parlando? Di quel vigile che porò per sfuggire? No, non lui. Lui mi aveva fatto parlare alla retromarcia, quello che se me la vuol fare la multa me la faccio. Tu stai parlando, già abbiamo capito, di Rubbioli. È positivo. No, sto parlando di quello che c'è al Vespone e abita in via delle Vigne, quello diciamo di Rubbi. Sì, già lo so già, è un altro Issumi. Quello mi ha fatto 4 punti e 4 giorni, io 28 anni che c'ero, non avevo mai preso una multa. 29esimo anno, lui in 3 giorni mi ha fatto 3 multe, e principalmente non è possibile, non ha mai preso una multa in tanti anni, in 3 giorni dirà no, ce l'ha con lui questo qua, siamo anche al comando. Lui ha detto che io ero prepotente, non sono prepotente, l'ho risposto solo a dovere, lui mi ha detto io sto facendo il mio di dovere, lui faccia il suo. E ha detto nella vita che tutti l'aiutano come lui sta aiutando a me. Ma infatti è una persona triste, non lo vedevo una persona triste. Ma dimmi tu, che devo scaricare la carne lì, quel ristorante che c'è lì dove prima c'era, come si chiama, c'era Fraghi, prima te lo ricordo. Sì, me lo ricordo, però mi ricordo il nome del ristorante già. C'era praticamente prima Fraghi, poi l'aveva preso una commessa di Antonietta, una commessa nostra, col marito se l'avevamo preso, e quando c'era questa commessa comprava da lui, naturalmente. E praticamente prendeva la carne a pezzi grossi, capito? Prendeva pane e tutte queste cose qua che servono al ristorante. E non c'era mai parcheggio, come facevi a scaricarlo? La roba, prendeva anche bibite. È normale che io mi devo mettere secondo il filo, dico guardi che sto andando a scaricare, lui si è girato, mi ha guardato e non mi ha risposto, pensavo che fosse d'accordo, chissà ci acconsente, no? Io ho detto alla signora, guardi che mi sta mettendo la multa, che sta scaricando, mi sta mettendo la multa al vice, sono uscito in furia che lo trovo mettendo la multa, e gli ho detto scusi ma te l'ho anche detto. Sì, lei faccia il suo lavoro, io faccio il mio, così mi ha risposto. E io ho giudicato che tutti nella vita l'aiutino come le sta aiutando a me. Eva tue. Oia. Poverino, come siamo messi, capito? Umanità zero, Umanità zero, umanità zero. Avanti, fra. No, io non li conosco questi vigili. Più di vigili di Papo Thomas non li conosco neanche voi. Non ho avuto mai modo. Sgarbiniero, a chi? A questo d'ora ha fatto un casino lieto, era un miserabile, ha rischiato di prendere anche colpi. Si possono trasferire da un comune all'altro in bici, adesso per dire ho visto Ulisse che assassa. Credo proprio di sì, beh, se l'hanno fatto. Oh. Sì. Ma Ulisse come mai era sotto casa? Come mai si può assassare? Era con la moto. Dice perché facciamo il giro. Perché adesso non sono più municipali, sono polizinti sono adesso. Sì, ma appartengono a un comune, è un comune con l'altro comune, non penso che ci sia nulla, un comune con l'altro, pensavo fosse così, invece no, perché vicini di Porto Antonio si riunisce a Sassari. No, facendo parte della polizia, non sono più del comune, sono dello Stato, li possono far girare. Prima erano municipali e basta, infatti prima non erano tutti che potevano arrestare, fare, invece adesso possono anche arrestarsi. Sì, questo lo so, hanno arrestato gente che faceva spaccio di droga nelle scuole, quindi moto, li hanno beccati. Esatto, invece prima, tanto tempo fa, non lo potevano fare, adesso lo possono fare, sono diventati poliziotti, sono diventati. ma il fatto che siamo stampati non mi risulta, il buio penso che sia sempre comunale. Sono comandati dal comune, ma sono poliziotti. A me me l'ha detto uno, me l'ha detto qua Sosso, me l'ha detto, non è che svincere. E da vigile urbane sono passati a polizia municipale, ma municipale vuol dire del municipio, cioè del comune. Sì, ma è polizia, è comandante, sono stati e dati in dotazione al comune, mi segue in quel comune lì, però quando servono li mandano anche in comuni. In comuni, ma secondo me va anche in comuni di tutta Italia, eh? Posso dire. Vabbè, fatto sta che te l'ho detto, Ulisse, ti ce lo conosci? Sì, che lo conosco, ho voglia, E lui è a Sassari, ma anche un altro l'hanno portato, era da Porto Torres, adesso è a Sassari. E questo qua invece l'hanno trasferito all'Alghero, a chi la pigaccia fa faccia, eh? È stato trovato lo stapio per picchiare forte. Allora hanno visto che la cosa era un po' strana e l'hanno trasferito. Vai fra. Sì, perché l'Alghero se si comporta male non lo picchiano. Piggio. Tu lo sai che ti comporti male in un posto, ti comporti male nell'altro, poi alla fine ti richiamano e ti dicono, beh, cosa devi fare? Esatto, no, perché poi magari alla fine lo mandano, cosa ti posso dire, a Nule, a quei posti lì. Per carità, e rimedi, non pagata nessuno. Camera, se non ha... Direi un po'. Ma devi anche i carabinieri ne fanno di cose. Io ci vado per lavoro e sono e stanno zitti, addirittura girano a piedi. Una volta si è già fatto il fiume, si è buttato in mezzo alla strada e ho ferrato di corpo, ma è lì perché non ha messo la freccia per fermarsi. E chi questo? Fiori. Sì, Fiori ha messo per fermare la moglie. Allora, se a me una volta il direttore sa che prima passavano anche gli autotrini, sa questo autotreno mi ha fatto fermare, per me adesso se l'ho fatto tutta retromarcia, se no le metto la multa perché lì si doveva fermare prima non so che cosa. Ha detto mi faccia la multa, io retromarcia non ci torno, ci sono gli autotrini dietro, non mi devo sbattere per... lo so, ma io devo fare la multa, faccio la multa, ma la voi dove la fate? Era prepotente, era. C'era prepotente, io. Per carità, guarda. Io so di storie di un vigile che abitava in via delle Sacche, ha sequestrato frontalini di autoradio perché avevano lo stereo alto. Gli era preso il frontalino dell'autoradio. Monzi. Sì. Ha pigliato il frontalino di autoradio. E perché me lo deve sequestrare a me contro il frontalino? E perché lo suo? Ma lo facevano qualcosa che conoscevano i tuoi genitori, magari prendevano, no, lo do a Babudù, magari quella cosa era da lì, che andava via a Babudù e ti puni in riga, capito? A livello familiare. Non vedi, sto parlando di un po' di anni fa, di 20 anni fa, lo facevano, 20 anni fa lo facevano, e i carabinieri perché mai c'erano quelli che conoscevano tuo padre in giro, in Bernano, senza casco, di biglietto con il caffiotto. Una volta un carabiniere mi ha fermato e mi ha detto io a te ero in moto, ero un ragazzino, e tu io a te non ti rimbongo verbale, io a te verbale non ti rimbongo, anche intanto verbale, quindi magaba buddo, però ti con un ciaffo, capito? E lui mi ha fatto una facca sulla testa e mi ha detto va con fretta di me che mi abbia in moto. Quelle lì erano le bellini, l'insegnamento. E prima erano di dirsi, dai, non peccavano la legge molto spesso. No, vabbè, diciamo che era un altro modo di educare le persone, mi segui. L'affrontavano da uomo a uomo. Anche perché ti vedevano impennando, ti fermavano e ti facevano mettere la moto di lì e te ne facevano andare a piedi e poi magari loro se ne andavano e ti trovavi sotto casa tua con un babudò, una due e ti vedevano la romanzina. la pegati la moto. Era un po' più lontano da me, parlava al telefono con la moglie. Però tu lo sai che è venuta la polizia che l'avevano chiamati dalla banca, perché c'erano tre tipi sospetti fuori dalla banca. Vabbè, quelli già sono forse un po' così, però ma ci pensi, le telecamere delle banche cosa fanno? Deve essere c'è qualcuno proprio che controlla questa cosa qua. Ci prendi fra? Sì, ci sono le guardie giurate. No, non è quello il problema, no. Non sono le guardie giurate che ci sono dentro, che poi dentro mi sembra che non c'è nessuno. Il problema è che sono, le telecamere sono collegate con la questura. Può essere sì. Ma purtroppo è così, perché dentro, nelle banche dentro non penso che ci siano le guardie, a meno che non sono, non è un'ora di notte, queste cose qua, questo non lo so, però di giorno i guardi mi muovono. Diciamo tutte quante le anni monitor dove controllano tutti i movimenti, senza se bisogno, perlomeno non so se a Sassari ci siano, però a Sassari ci sono. Non so questo, se io guarda, ti dico una cosa, io una volta non so se c'è ancora quella banca che ha tanti sportelli di tanti tipi di banca. Io un giorno sono entrato lì a prelevare un po' di soldi, che non avevo soldi, non avevo contanti, sono entrato, non so che entrato e non so come uscire dai scimmi. E io ho cominciato a suonare, c'erano pulsanti rossi, suonare in caso di emergenza, e io non riuscivo a scimmi dalla banca, ha detto che fino a gara, come ti prendi mai non ha detto. Io suonando su da soli a gicchicciato, una musica, due musiche. Sono arrivate 5 o 6 pattuglie di polizia, non vivi, e da me arrivi giù, abito la Ianna, e mi bigiani. E ha detto, no, io stavo solo, ma come che si, che io hanno visto che stavo solo per levarlo, e ha detto, non sono riuscito a uscire. Ecco, è così. Una volta alle 4 di mattina telefonano a casa, polizia, c'era mia sorella che aveva avvisato che andava a ballare, ho pensato che fosse successo qualcosa, e mi fa, lei è il signor Mario. Ma io sono il figlio, perché? Perché hanno aperto il negozio, mi può passare suo padre? Sì, papà dice che ti hanno aperto il negozio, mi può vedere che qualche scherzo che stanno facendo. Vabbè, prendo la macchina, andiamo al negozio, la porta era chiusa, mio padre ha preso le chiavi, è andato per la fine pure a fare della Iana, era scandinata, praticamente le candele l'avevano aperto. Dentro c'erano nascosti i poliziotti, ma in alto, noi siamo i proprietari, non era Marinato, siamo i proprietari noi, e dimostratemelo, nome, cognome, questo dei documenti, questo e quell'altro, vediamo i documenti, e come mai siete nascosti? Perché è successo questo, uno ha puntato i fari, l'altro con una pala ha scambinato i cardini e gli altri stavano rubando da dentro. Che poi cosa gli hanno rubato? Mio padre colla, pellava, mio padre era calzolaio, quindi ti puoi immaginare che è andato di furto. Vabbè, c'è quel pellame che vale anche il buio, però la colla, maratoni grandi, perché lui lo prendeva dal continente, la pagava di meno, e si faceva la scorta, c'aveva dentro bottega. Beh, fatto sta che questi qua l'ha visto la guardia giurata. E ha detto, un attimato l'altro, questo che ha preso la palla mi recuta, qui c'è la questa guardia giurata, si è nascosto dentro la macchina, ha spaccato il vetro della macchina con la palla, però l'ha arrestato, l'ha bloccato, ha puntato la pistola e gli ha messo le manette, ha chiamato la polizia, l'hanno arrestato questo qua, e questo qua era il figlio di una che prendere la denuncia. Mio padre è andato a prendere la denuncia e gli hanno detto: si mette nella denuncia, sta facendo il gioco dei delinquenti e noi non ne accettiamo più denunce da lì. Se succede qualcosa non venga più da noi perché non ne accettiamo più denunce. E quindi non ne l'ha potuta togliere, si è fatto la galera. Ha fatto bene, ha fatto, ma è giusto quello, perché capita, se ti rubi la denuncia è come se gli hai messo dentro e basta. Poi quella guardia giurata ha rischiato, mi ha tirato la pala, avevano rubato da un cantiere che c'era lì vicino. E una cliente ha chiamato le guardie giurate perché erano lì vicino, li ha visti dalla finestra. Praticamente ha avvisato queste guardie giurate che erano lì vicino e sono andati, capito? Erano investigati, però ha mischiato quello, ha tirato la pala, se lo si nascondeva dentro la macchina lo guidava in pieno. Già ti credo, riprendi, ho un altro giro e poi me lo dava con le carte. Eh sì, anche io faccio un altro giretto e poi anche io vado a coricarmi, perché poi domani altrimenti è un problema alzarci. Ma so quante ce ne sono di queste storie già, di queste storie che prendono e guarda, anche per esempio questi atti incendiari che fanno, queste macchine che incendiano, ma tu pensi che loro non lo sanno chi è? Loro sanno chi è me, perché non sono stupidi, perché dalle telecamere che fanno di videosorveglianza noi non lo sappiamo, ma magari c'è qualche telecamera ambientale che riprende, perché lo sanno che è impossibile, però non possono fargli niente. Tanto vanno dentro un giorno e poi li liberano. Infatti era un amico mio, ha incendiato la macchina a casa che non ce l'aveva mai compiuta di pagare, mi stava ancora pagando la mia. E allora guarda, ma poi a Porto Torres è uscito questo qua da casa, tutto fatto a psicofarmaci, a cosa, l'alcol, prende, va in via Principe di Piemonte, inizia a spaccare i vetri, senza motivi, perché era non era capace di intendere di volere, inizia a spaccare i vetri, i specchietti, queste cose. Adesso dimmi tu, no, io che ho la macchina, che la uso per andare a lavorare, domani mattina prendi e mi trovo, scendo e mi trovo. Domani mattina, perché si è sentito il casino, l'hanno preso all'istante, siamo chiamati i carabinieri, l'hanno bloccato, i carabinieri l'hanno preso all'istante, perché bucava l'uomo col coltello, faceva, e ha fatto un casino ogni due la notte, le prendi fra. Già, se stai dicendo di Marco, per me è stato un errore quello lì, a bruciare la macchina, non penso che ce l'avessero con lui. Ah no, ce l'avevano con lui, cioè per colpa della figlia, perché la figlia ha fatto una gazzata, ha fatto tornare a uno e hanno bruciato la bagaglia. Se prendono che bruciano la macchina al padre, ma questi sono ignoranti veramente, sono. Non capisco questi atti che fanno, è una cosa assurda. Anche se la nebigliata, quello va a la figura, ma per nuova c'è la macchina. Che la figlia non c'aveva macchina, capito? Prenditela diversamente, fallo diversamente, vai, è così un ciaffo, ma non lascia cercare cose dell'altro, no? Loro non ragionano così, questa gente qui non ragiona così, basta che mi fa un rimprovero per qualche cosa, che voi già andiamo avanti, ma senza motivo così. Grazie a Conte, bubù, capitano. Quello mi è dispiaciuto un bel perché era nuova quella macchina, la Virginia Bobby. Io l'ho riconosciuta dal cappello del padre che ci aveva dietro, io il padre l'ho conosciuto, mi ricordo ancora, quel cappello se l'ha tenuto da quando è morto dietro, nella macchina, e l'ho riconosciuta da lì. Mi sono portato il cane alle 6 di mattina perché l'ho ritrovato alle 7 a lavorare, ho portato il cane, e ho detto, quella della macchina di Marco, chissà se lo sa, invece io lo sapevo, l'avevano avvisato i carabinieri. Infatti in effetti ci aveva un cappello sempre dietro, ci aveva, nel coso di dietro. Però non mi ricordo che tipo di cappello era. Cappello a quadri, era del padre. Si è salvato quello e la Madonna che ci aveva attaccato allo specchietto. Tuttora si è sbrugliato. Sì, sì. Luva, c'è la che. Vabbè, era così fiero. Lo so. Succede. Quelle zone lì succede, capito? Poi dice che c'è una specie di organizzazione che vanno a Cagliari, poi fanno quattro forze, poi Sassari, capito? Niente, per carità, che gente. Va bene signori, dai, io vi saluto. Me ne vado con i capi, se ne me ne romperò. Ci sentiamo. Ciao Gianni, buonanotte, buon tutto, dai, ce ne ascoltiamo. Ciao Gabi. Se devi andare a Trabacco domani, buon lavoro. Divertiti. Sì, anche adesso prendo e chiudo la trasmissione per stasera, così andiamo a fare un po' di carica. Sì, grazie Franco, grazie di tutto, il QSO, sempre tranquillo, sempre sereno.